Noi intanto saremo in due piazze nazionali in questo 1° maggio, Bologna e Taranto. Direi che Taranto si commenta da sola sulla questione Ilva. A Bologna il tema portante sarà il tema degli appalti, delle esternalizzazioni e dell'intermediazione di manodopera, una vera e propria piaga che affligge il mondo del lavoro in Italia e in particolare alle nostre latitudini. Dalla logistica alla sanità a tutta una serie di servizi che hanno dignità di essere pubblici e invece vengono privatizzati, e questo a spese dei lavoratori e dei dipendenti. Poi noi mettiamo in continuità questo 1° maggio con il 25 aprile, che c'è appena stato, è stata una bella giornata di lotta e anche un ritrovarsi in piazza da parte di soggettività che esprimono un forte antagonismo al governo in questo momento presente. Non è soltanto una questione di condizioni del lavoro, è anche una questione di progetto governativo del governo Draghi, che non farà altro che male ai lavoratori e alle lavoratrici di questo paese, anche se oggi si presenta con una faccia ben diversa da quella dell'uomo che si lurò alla Grecia nel 2015. Per cui per noi questo è un tema portante, così come è un tema portante quello dell'antifascismo. Appunto, dicevo, c'è una continuità con il 25, noi questa continuità la esprimeremo in maniera molto plastica. Avevamo chiesto alla questura come prima piazza Piazza Maggiore, ci è stata negata in virtù dell'ordinanza, oggi l'ordinanza viene sciolta e quindi noi rivendicheremo una presenza in quella piazza, ci muoveremo alla fine dell'iniziativa della mattina che vedrà sul palco attivisti sindacali, artisti, esponenti di movimenti, una serie di interventi che comporranno quello che è oggi il mondo in lotta per dignità e migliori condizioni. Poi ci muoveremo verso Piazza Maggiore e da lì avrà inizio un corteo antifascista per esprimere la nostra ferma contrarietà a quel comizio che si dovrebbe tenere alle 3 da parte di una neonata associazione neofascista che millanta di rivendicare i diritti dei lavoratori. Non ci sono diritti dei lavoratori che si possano accostare a un'idea fascista e quindi noi esprimeremo con forza questa rivendicazione, oltre a quelle di cui ho appena parlato.